giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12.15 ancora un cordiale buongiorno da Maria Spezia e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. In questa edizione vi parleremo di Friuli Doca Udine, della giornata europea della cultura ebraica, del congresso a Sutro dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue e della festa di Confcooperative Pordenone a Valvasone Arzane. Friuli Doc, la gran kermesse enogastronomica udinese, è giunta alla sua giornata finale. Primi bilanci, commenti e considerazioni. L'ultimo giorno di Friuli Doc, come quelli precedenti, è denso di eventi fin dal mattino, dalla degustazione di caffè con gli studenti del Zanon al Contarena, ai laboratori di cucina per bambini e ovviamente lo show cooking solidale di Luciano Stellato Scarello alla Fondazione Renati. La serata di ieri ha visto la solita festa diffusa fino a tardi all'insegna dell'enogastronomia quasi sempre di qualità che ha un costo e che immancabilmente ha generato qualche polemica sui prezzi, più sul cibo che sulle bevande, con il vino che comunque a partire dai 4 locali, cioè i vini dell'enoteca regionale di Piazza Matteotti, la metà per i cari. Il trico tra i 6 e gli 8 euro, i primi dai 9 in su. Non eccessivi, ma considerato che le porzioni non sono sempre abbondanti, le attese la sera stessa superiore alla mezz'ora, qualcuno ha storto la bocca. Gli stand, che a parte il giovedì sono stati salvati dal giorno pluvio, sono invece entusiasti di come sta andando questa edizione del trentennale. Bisogna mantenere alta la qualità, spiegano, ma i costi sono cresciuti per tutti. Solo a prima manifestazione questa sera si potranno fare i conti di come è andata, ma la soddisfazione è già diffusa, soprattutto per gli espositori del Collinare sul Castello e di chi era nel tendente di piazza 20 settembre. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi si celebra la giornata europea della cultura ebraica. Molte persone a Trieste hanno visitato la sinagoga e il cimitero ebraico. Sentiamo Davide Bellelli, vicepresidente della comunità. Ovviamente dal 7 ottobre il nostro stato d'animo come ebrei italiani residenti a Trieste è cambiato molto. Molti di noi hanno amici, tanti hanno anche parenti che vivono in Israele, per cui tutti possiamo immaginare come si sentano in questi mesi di attentati e di problemi. Trieste, per fortuna, da sempre come comunità ha un buon rapporto con le forze dell'ordine. Da questo punto di vista ci sentiamo aiutati e protetti. Tutte le nostre istituzioni sono presidiate e fortunatamente non abbiamo alcun atto particolare da registrare e da segnalare. Avete avuto attestati di solidarietà? Sì, molte persone hanno manifestato la loro solidarietà con la comunità per quanto è capitato il 7 di ottobre. Tantissime persone, soprattutto nelle prime settimane successive al 7 ottobre, sono passate davanti ai nostri uffici, davanti alla sinagoga, lasciando biglietti, messaggi di solidarietà e anche diversi mazzi di fiori. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il paese di Sutri incarna ad ospitare oggi il 65° congresso provinciale dell'Associazione Friulana Donatori Sangue. L'impegno dei 50.000 iscritti alla FDS di Udine sta garantendo l'autosufficienza al sistema sanitario regionale e aiutando anche quelli di altre regioni. Ma è fondamentale che le istituzioni non arretrino nel sostegno alla donazione di sangue. Lo ha sottolineato il presidente della FDS di Udine, Roberto Flora, in occasione del 65° congresso provinciale che si svolge a Sutrio. In un quadro positivo non manca del resto qualche motivo di preoccupazione. Anche le donazioni di sangue pagano infatti il problema diffuso della carenza di infermieri. Il campanello di allarme è rappresentato dal fatto che nel 2023 delle 345 uscite dell'autoemoteca programmate a inizio anno, ben 9 sono state annullate per indisponibilità degli infermieri che non sono stati sostituiti. Quest'anno ancora peggio, nei primi 8 mesi le uscite annullate erano già 8. Da gennaio ad agosto poi i centri trasfusionali della provincia di Udine sono rimasti chiusi 8 volte, sempre per lo stesso motivo. Ciò nonostante i numeri delle donazioni della FDS rimangono tra i migliori d'Italia e più in generale d'Europa. Nel primo semestre di quest'anno le donazioni sono state 18.467, in crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Di qui la richiesta di più personale per le autoemoteche e per i centri trasfusionali e più attenzione alla salute dei donatori. 2.259 volontari premiati, il massimo riconoscimento, la goccia d'oro, è andato a 76 di loro. 2 gli obiettivi prossimi, moltiplicare le donazioni di plasma e rivitalizzare i centri ospedalieri, in quanto le autoemoteche devono essere riservate alle località più disagiate, alle scuole e alle fabbriche. Su Trio Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Degustazioni, incontri, spettacoli, giochi, mercatini, laboratori e tanto altro oggi a Valvasone Arzene per la festa di Confcooperative Pordenone. Il mondo della cooperazione, che fa capo a Confcooperative Pordenone, sta vivendo a Valvasone la sua giornata di festa. Tra il castello e Parco Pinni è in corso l'evento Coop Life, all'insegna di incontri, di approfondimento, laboratori e momenti di intrattenimento dedicati ad adulti e a più piccoli. Storie di tutto rispetto, azioni concrete per un futuro sostenibile e inclusivo, il titolo scelto per il convegno che ha aperto il programma nella sala cavana del castello. A condurre il dibattito la giornalista Natascia Lusenti, che ha intervistato i presidenti di cooperative impegnate nel rendere più sostenibili i propri processi produttivi e inclusivi le proprie dinamiche lavorative. Il mondo della cooperazione è una forza trainante a livello sociale ma anche economico. Sono 120 le cooperative aderenti a Confcooperative in Friuli Occidentale, 39.000 soci con occupazione, fatturati in crescita dai 448 milioni del 2019 ai 577 milioni attuali. Valvasone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo ce lo dà nuvoloso coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 15 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi, Pordenone 14 gradi e mezzo, Udine 13, Gorizia 12, Tarvisio 13 gradi, Forni di Sopra 12 gradi e 5 decimi, Piancavallo 11 gradi e mezzo, Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, Sappada 9 gradi e mezzo, in quota sull'Ussari e sullo Zoncolan 5 gradi e 5 decimi, tornando sulla costa Grado 15 gradi con temperature del mare a 23 e mezzo e Lignano 13 gradi e 5 decimi con temperature del mare a 19. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: cielo in prevalenza nuvoloso, saranno possibili sia locali schiarite sia deboli piogge. Per domani cielo variabile al mattino, coperto dal pomeriggio con deboli piogge verso sera, temperature ancora 5 gradi circa sotto la norma del periodo. Si intitola La Scimmia, lo spettacolo teatrale inserito nel cartellone della Tra Laico e Profano Festival, dedicato al tema dell'identità, della complessità della società e dei conflitti di genere. Appuntamento a Malnisio, all'antica centrale idroelettrica, alle 20.30, a ingresso gratuito. Lo spettacolo è stato liberamente ispirato al racconto Una relazione per un'accademia di Franz Kafka. Ne abbiamo parlato con l'ideatrice e interprete Giuliana Musso. Scimmia diventa uomo, no? Lo fa per sopravvivere alla cattura, alla tortura, alla costrizione, quindi impara il linguaggio. Ecco, questa è una riflessione sull'adattamento alla violenza, senza accorgersene anche questa scimmia, pur di sopravvivere, impara un linguaggio violento, impara una vita in cui la razionalità schiaccia il sentire nel corpo, le emozioni, i bisogni primari. Ecco, in questa scimmia io credo, da questo punto di vista, un pochino tutti ci possiamo riconoscere. E quando questo succede, attraverso anche la maschera, no, del teatro, che in questo caso è una maschera buffonesca, sarcastica, un po' ambigua, un po' perturbante, io credo che quando ci riconosciamo possiamo insieme a questa scimmia commuoverci per la perdita, no, di una parte della nostra animalità, che è anche una forma dell'umanità molto profonda, molto, molto autentica. Tra gli appuntamenti culturali di oggi, il Tomorrow Today Festival, manifestazione dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, ha aperto questa mattina i battenti a Trieste davanti ai magazzini 27 e 28 di Porto Vecchio. Tra gli ospiti speciali, gli influencer Alessandro Chersovanni e Michael Lanza. Lo spettacolo serale include l'esibizione di artisti emergenti e il concerto del rapper Tony F. Ancora un appuntamento prima di chiudere: la festa del perdono di Prestento di Toriano di Cividale prevede, come da tradizione, la processione con la statua lignea della Madonna tra le strade del paese addobbate da migliaia di fiori di carta, e questo alle 16. Come detto, era l'ultima notizia di questo giornale. Ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Carlo Morello e Riccardo Stoic. Da Maria Spezia e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona domenica.